Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Al via i lavori di riqualificazione e ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo, un intervento da oltre 4 milioni di euro, obiettivo migliorare la capacità di gestione delle emergenze e potenziare l'offerta di servizi sanitari ambulatoriali. 226 detenuti su una capienza di 140 posti, sempre più pesante il sovraffollamento nel carcere di Trieste, dove mancano 30 unità di polizia penitenziaria, oggi un'ispezione sindacale. Col diretti del Friuli Venezia Giulia in partenza per la manifestazione del prossimo mercoledì a Parma, tra le richieste all'Unione Europea, risorse adeguate per il settore agricolo, sburocratizzazione e semplificazione, no a etichette allarmistiche o tasse sul vino. Nel fine settimana tornano le giornate di primavera del FAI con centinaia di siti del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale aperti al pubblico in via straordinaria. 20 luoghi visitabili in Friuli Venezia Giulia, dalla Carnia al Mare. Scherma, medaglia d'argento ieri per Giulia Rizzi nella prova del Grand Prix di Spada a Budapest per l'olimpionica friulana e l'ottavo podio in carriera in Coppa del Mondo. Al via Lignano Sabbiadoro le convittia di 2025, i giochi olimpici nazionali degli istituti educativi statali, un esempio dell'eccellenza del sistema scolastico regionale ad organizzarli, l'educandato Uccellis di Udine. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Eva Ciuc e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. I temi della sanità ancora in apertura, questo pomeriggio l'incontro tra sindaci e azienda sanitaria sulla privatizzazione del pronto soccorso di Latisana che vede contrari i primi di destra e di sinistra. Al via intanto i lavori di riqualificazione e ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo, un intervento da oltre 4 milioni di euro su una dotazione complessiva già disponibile di 33 milioni per l'intera struttura. Per il via del cantiere è arrivato nel capoluogo carnico l'assessore alla salute regionale Riccardi, che ha sottolineato come si tratti di un investimento importante che mira a garantire un presidio di salute strategico, soprattutto per la sua collocazione geografica. La riprogettazione del pronto soccorso garantirà una gestione efficace per future emergenze pandemiche, l'espansione della camera calda, cioè l'area riservata ai mezzi di soccorso, e la revisione degli spazi interni, oltre che la messa a norma degli impianti tecnici. Oltre all'ampliamento del pronto soccorso, il progetto generale per l'ospedale di Tolmezzo prevede anche la costruzione di un nuovo edificio dedicato agli ambulatori. E ristrutturazione e ampliamento del corpo centrale d'ingresso, numerose sistemazioni esterne strategiche, tra cui la demolizione della portineria dell'ingresso, della rimessa delle ambulanze, delle cisterne per i combustibili. Ci saranno nuovi parcheggi, la copertura degli ingressi pedonali al piano terra, del reparto dialisi e la creazione di un percorso pedonale di accesso dalla strada all'ingresso principale dell'ospedale. Il problema del sovraffollamento carcerario e della carenza di personale sono le emergenze al centro dell'ispezione sindacale nel carcere di Trieste del segretario generale del sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria, Donato Capece, impegnato in un giro tra le carceri del nord-est. A Trieste, che oggi conta 226 detenuti, su una capienza di 140 posti mancano 30 unità di polizia penitenziaria. Una visita di un'ora e mezza a tutte le sezioni del carcere per vedere e toccare con mano l'emergenza sovraffollamento ancora senza battute d'arresto e le difficoltà quotidiane che vivono gli agenti di polizia penitenziaria nel cercare di gestirla, così è cominciato da Trieste il giro per le carceri del nord-est del segretario generale del sindacato autonomo polizia penitenziaria Donato Capece, ad accompagnarlo dentro al carcere triestino il segretario regionale del SAP Giovanni Altomare, che gli ha rendicontato la situazione. Grazie a un piccolo trasferimento nei giorni scorsi, reclusi presenti da 230 sono scesi a 226 su una capienza regolamentare di 140 posti e intanto però mancano 30 agenti di polizia penitenziaria in pianta organica. A peggiorare la situazione è la chiusura per lavori della sezione a celle singole da 15 posti per coloro per i quali è richiesto l'isolamento, che per adesso, per mancanza di spazi alternativi, devono necessariamente stare nelle celle a più posti insieme ad altri detenuti. Come nel resto d'Italia, una situazione a rischio disordini, rileva il segretario generale del sindacato Capece, che esprime preoccupazione per gli operatori del penitenziario, già la scorsa estate teatro di una violenta rivolta. Capece. In questo istituto come negli altri abbiamo la presenza di psichiatrici, di tossicodipendenti, abbiamo la presenza di tanti soggetti che nel carcere non ci dovrebbero stare. Ma soprattutto il grave problema è la carenza di questi poliziotti penitenziari. Io li definirei eroi silenziosi. Tutti i giorni vengono sottoposti a uno stress da lavoro veramente enorme. Si parte con il servizio ordinario, che oggi è di 8 ore, per chiedere loro di prestare servizio in eccedenza, anche oltre 8 ore, e spesso e volentieri ci dicono: non abbiamo le risorse per rimborsarvi. Ci rivolgiamo al ministro Nordio e chiediamo che il carcere venga deflazionato e soprattutto ci dia, a supporto della sicurezza, più tecnologia. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Affitti turistici esplosi a Trieste con l'aumento del flusso di persone in città. Crescono anche i controlli da parte del comune. Il punto poco fa in una conferenza stampa. Alberghi, bed and breakfast, case vacanze, affittacamere. Sono 2.130 le strutture di accoglienza turistica di Trieste sulle quali si sono concentrati controlli del nucleo di polizia commerciale e accertamenti tributari del comune di Trieste. Oltre 280 i controlli effettuati, 33 le irregolarità registrate, soprattutto dal 1 gennaio, quando è entrato in vigore l'obbligo del CIN, codice identificativo nazionale, che certifica la regolarità dell'alloggio. Noi siamo con Walter Milocchi, comandante della Polizia Locale di Trieste. Perché è stato importante aver introdotto il CIN? Perché il codice identificativo nazionale è obbligatorio da inserire in tutte le piattaforme italiane e internazionali che pubblicizzano le strutture ricettive, e quindi questo toglie la possibilità agli abusivi di poter pubblicizzarsi sulle piattaforme apposite. Questo di fatto ha un po' scremato il mercato da quelle strutture che sono meno in regola. Naturalmente poi bisogna effettuare i controlli non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche di quelle che sono le dotazioni obbligatorie, tra cui ad esempio in particolare il rilevatore monossido di carbonio e l'estintore, che sono assolutamente importanti, anche perché in qualche caso gli appartamenti utilizzati per queste attività sono piuttosto vetusti. Ricordiamo che appunto proprio a Trieste, grazie al rilevatore di monossido di carbonio in una struttura ricettiva che l'aveva adottata, ha salvato vite. È successo in via Torre Bianca non più tardi di 2 mesi fa, un bene questo? Sì, assolutamente sì, perché poi è un gas inodore che si diffonde in tutto l'edificio e quindi in qualche modo garantisce anche i vicini di casa, ed è assolutamente importante. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel mese di febbraio la stima definitiva dell'indice dei prezzi al consumo nel comune di Trieste ha registrato un più 0,1% rispetto a gennaio e un più 1,9% rispetto a febbraio 2024, cioè di un anno fa. In un anno sono aumentati i prezzi del caffè 12%, nelle acque minerali delle bevande alcoliche 4,8%, dei tabacchi 4,1%, costano di più i servizi ricreativi e sportivi 18,3%, mentre la tecnologia costa meno rispetto ad un anno fa, da 6 a meno 16%. Dati simili nel comune di Udine, che invece ha registrato un più 0,1% rispetto a gennaio 2025 e un più 1,7% rispetto al febbraio di un anno fa. A subire l'aumento maggiore rispetto ad un anno fa sono state le spese per l'istruzione 3,7% e i prezzi per le abitazioni, acqua, elettricità e combustibili 3,3%. La cronaca e i carabinieri della stazione di Sacile hanno individuato gli autori di diversi furti commessi all'interno di auto in sosta parcheggiate in strade del centro di Sacile, nei pressi della stazione ferroviaria. Si tratta di due cittadini marocchini di 20 anni, entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e porto d'armi. I due sono stati sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso di alcuni arnesi per lo scasso, un cacciavite, una chiave inglese, di varia refurtiva. Il tutto è stato posto sotto sequestro. I due giovani stranieri sono stati deferiti alla procura di Pordenone per furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Siamo alla pagina del tempo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 10 gradi, Pordenone e Udine 12 gradi, Gorizia 11 gradi. In montagna a Tolmezzo 10 gradi, a Forno di Sopra 6 gradi e mezzo, a Tarvisio 6 gradi, a Sappada 4, a Piancavallo 2 gradi. Sul Monte Zoncolan 0 gradi, Monte Lussari meno 1 grado, grado Elignano 11 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: nel pomeriggio avremo cielo da variabile a nuvoloso con possibili precipitazioni sparse. Quota neve sui 700 metri circa. In serata sulla costa soffierà bora moderata e fredda. Domani avremo cielo sempre in prevalenza sereno poco nuvoloso, temperature invernali in montagna con possibili locali gelate notturne anche in pianura. Sulla costa di notte continuerà a soffiare bora sostenuta e fredda moderata. Nel pomeriggio saranno oltre 600 rappresentanti di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia a Parma il prossimo mercoledì in occasione della grande mobilitazione L'Europa che vogliamo in difesa del Made in Italy. L'associazione si oppone alla carne coltivata. Sentiamo le loro richieste all'Unione Europea. A meno di un anno dalla manifestazione del Brennero, nuova mobilitazione nazionale di Coldiretti a difesa del Made in Italy. A Parma, il 19 marzo, ci sarà anche una nutrita delegazione del Friuli Venezia Giulia. Cesare Magalini, direttore regionale di Coldiretti. Siamo in 600 dal Friuli, ma da tutta Italia convoglieranno a Parma circa 20.000 persone. Parma è stata scelta per la sua importanza nell'agroalimentare, ma anche perché lì c'è la sede dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che dovrà valutare le richieste di autorizzazione di cibi ottenuti da cellule coltivate. All'EFSA, Coldiretti chiede studi medici, preclinici e clinici su questi prodotti, come avviene per i farmaci. Non contro l'Europa, ma vogliamo un'Europa più a misura d'uomo, che capisca i territori, che capisca anche i vari paesi e l'economia. Tra le 8 richieste alla Commissione europea, risorse adeguate da destinare ai veri agricoltori, meno burocrazia e più semplificazione, e reciprocità negli accordi internazionali, soprattutto verso i paesi sudamericani del Mercosur. Vogliamo che certi accordi siano fatti a parità di regole. Non vogliamo che sia applicato il principio della reciprocità. Chieste modifiche al codice doganale comunitario con l'abolizione della regola dell'ultima trasformazione sostanziale e origine obbligatoria in etichetta per tutti i cibi commercializzati in Europa. Io credo che l'etichetta sia proprio la carta d'identità dei cibi. Non è possibile, questo è previsto come regolamento comunitario, che nel nostro paese vengano importati cibi, giusto, e poi diventano magicamente italiani attraverso l'ultima trasformazione sostanziale. Non è possibile che una passata che arriva dalla Cina però l'aggiunta di acqua diventi italiana. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel fine settimana tornano le giornate di primavera del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, con centinaia di siti del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale aperti al pubblico in via straordinaria. 20 i luoghi visitabili in Friuli Venezia Giulia. Scopriamo quali. Come scrigni ricchi di tesori segreti, tornano ad aprirsi al pubblico, in occasione delle giornate FAI di primavera, luoghi di solito chiusi ai visitatori. 20 i siti accessibili nella nostra regione sabato 22 e domenica 23 marzo in 12 diverse località tra la Carnia e il mare. Michele D'Accolla, referente FAI Friuli Venezia Giulia. Partiamo da Trieste con il Palazzo del Lloyd austriaco, poi Lloyd triestino, sede della Regione Friuli Venezia Giulia, per poi spostarsi a Gorizia, dove c'è il Palazzo del Municipio, quindi Attem Santa Croce, per poi andare nella zona di Udine, dove spaziamo da Palazzo della Porta, la sede della Curia Vescovile, andiamo alla sede del CISM, quindi il Palazzo Antonini Margili del Torso, per poi andare a un atelier, una stamperia, la stamperia d'arte del Bicocco, alla chiesetta, la cappella di Santa Maria della Misericordia, per poi spostarci in un vigneto storico a Faedis e l'azienda agricola Casa Bergum. Per ogni gusto io direi www.giornatefai.it. C'è un bel menu, basta mettere Friuli Venezia Giulia e si leggono tutti i luoghi e gli orari di visita. 750 quest'anno le aperture in 400 diversi comuni d'Italia per un appuntamento giunto alla 33esima edizione che dimostra l'interesse del pubblico per l'arte, la cultura e la scoperta del territorio. Il record è stato fatto nel 2019 con quasi 750.000 visitatori, anche qualcosina di più. L'anno scorso siamo tornati sopra i 550.000. In totale in questi 33 edizioni e insieme alle giornate d'autunno abbiamo sorpassato i 12 milioni di italiani. Quindi contando che siamo 60 in totale, insomma, è una cifra considerevole. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Estrarre terre rare in modo sostenibile dai prodotti elettrici ed elettronici a fine vita è l'obiettivo del progetto di una giovane dottoressa di ricerca dell'Università di Trieste, di Udine, Martina Sanadar, che ha vinto una borsa di ricerca biennale di 242.000 euro del programma europeo Marie Curie, intitolato all'unica donna che ha ricevuto 2 premi Nobel. Si tratta di una delle più importanti iniziative dell'Unione Europea sviluppate nel quadro del programma Horizon a sostegno delle ricerche di eccellenza post-dottorato. Le terre rare sono materie prime ormai indispensabili in numerosi settori come ambiente, difesa, energia, trasporti, telecomunicazioni, informatica ed elettronica. Il progetto di Martina Sanadar applica un approccio originale per un recupero selettivo di terre rare utilizzando dei materiali innovativi chiamati Ionogel. Si tratta di un materiale gelificato che combina alcune proprietà peculiari dei cosiddetti liquidi ionici ad alta selettività per i metalli, stabilità termica, con bassa volatilità, con i vantaggi di un materiale solido che può essere più facilmente rigenerato e riutilizzato. Questo permetterebbe di migliorare il riciclo di prodotti elettrici ed elettronici, riducendo la dipendenza europea dalle importazioni. Inoltre, consentirebbe di limitare l'accumulo di batterie nelle discariche, dove potrebbero rilasciare sostanze tossiche e metalli pesanti che andrebbero a inquinare suolo e falde acquifere. Cosa pensano i ragazzi sulla violenza di genere tra adolescenti? Cosa pensano del fatto che certi comportamenti di controllo e manipolazione vengono spesso normalizzati, se non addirittura idealizzati, attraverso i social e le serie TV? Una parte significativa di loro non ha piena consapevolezza delle conseguenze di tali atteggiamenti nelle relazioni affettive, mentre circa la metà ha riferito di sentirsi sopraffatta dalle difficoltà emotive legate a relazioni problematiche. In generale, il bisogno di maggiore informazione e strumenti per riconoscere ed affrontare queste dinamiche è stato un punto condiviso tra i partecipanti. Tutto ciò è emerso dagli studenti che hanno preso parte al percorso Teen Dating Violence, uno dei 6 moduli del progetto Uguali Diversi dell'associazione Tesis, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Pordenone Provincia. E di questo si è parlato nell'incontro finale che a Pordenone ha visto confrontarsi enti, soggetti e associazioni coinvolte nel progetto sostenuto dal Comune di Pordazione, dalla Fondazione Friuli e dalla Banca 360 Voce Donna, attività a cui hanno preso parte 900 studenti di 22 classi di vari licei collaboratori. Durante gli incontri si è riflettuto su pratiche come il controllo tramite geolocalizzazione, lo scambio di password, la stalkerizzazione, analizzando gli effetti negativi e la loro diffusione tra i giovani, ed è emerso che molti ragazzi non percepiscono il reale impatto di certi comportamenti manipolativi, spesso romanticizzati da social e serie TV. La metà degli studenti ha dichiarato di sentirsi sopraffatta dalle difficoltà emotive derivanti da relazioni problematiche. Siamo allo sport. Basket Serie A2, Cividale non riesce a coronare il sogno di vincere la Coppa Italia di Serie A2. Ieri sera a Bologna i Ducali sono stati sconfitti da Cantù per 74-57. Non riesce l'impresa, Cantù fa valere blasone e fisico e si porta a casa la Coppa Italia, trofeo meritato dopo mesi difficili. Cividale è supportata da oltre 400 tifosi arrivati dal Friuli orientale, stanca e senza la consueta energia. Dura un quarto nei primi 10 minuti, sebbene Redivo e Lamb non riescano a giocare al proprio livello, Miani con rimbalzi offensivi e tiri da fuori tiene la partita in equilibrio. Poi nel secondo la taglia fisica dei Brianzoni in difesa e il talento di McGhee e Moraschini in attacco fanno il primo break. I ragazzi di Pillastrini non segnano mai, tornano a meno 3 con la tripla di Marangon del 30-27, ma poi vengono ripagati dalla stessa moneta da Baldi Rossi per il 36-27 di metà match. Nella ripresa, dopo un brutto inizio che costa lo svantaggio in doppia cifra, un canestro di Dell'Agnello rimette il match in discussione, ma soltanto per un'azione, perché con i rimbalzi offensivi e un paio di fischiate sfavorevoli da parte degli arbitri, Cantù prende il largo e gestisce l'ultimo periodo senza troppi affanni, complice anche una Cividale nervosa nei confronti della terna arbitrale. Vince l'Acqua San Bernardo 74-57, le Aquile si consolano con l'abbraccio della Marea Gialla, anche se rimane l'amarezza per l'occasione mancata, come spiega Giacomo Dell'Agnello. Bruttissimo, fa veramente male, queste partite si giocano una volta nella vita se sei fortunato. Complimentissimi a Cantù, strameritata, però mi dispiace tanto. Ora bisogna solo ritrovare le energie, perché si gioca mercoledì, c'è poco tempo per piangersi addosso. Bologna, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ma sentiamo anche il commento a fine partita del presidente della Gesteco Cividale, Davide Michalic. Davide Michalic, non è bastato il cuore, poca energia e comunque una squadra più forte davanti. Sì, beh, la vittoria netta, a me dispiace tantissimo non aver regalato a questa meravigliosa gente, a tutta la nostra comunità, un grande trofeo. Ci credevamo, i ragazzi sono bravissimi, oggi abbiamo trovato la squadra che aveva qualcosa più di noi, che ci ha messo grandi difficoltà in difesa, non riusciamo mai a far canestro, ha saputo stoppare la nostra bocca da fuoco e hanno vinto con merito. Come si riparte? Il play-in è ormai sicuro, però assicurare una posizione play-off non sarà semplice, nonostante siate ben messi in classifica. Beh, per me questa finale di Coppa Italia è un punto di partenza, abbiamo un popolo che ci segue, la squadra è fortissima, oggi dobbiamo capire come mai non siamo stati all'altezza di quello che speravamo. Mercoledì arriva Verona e si riparte, la forza di questa squadra è che ha una capacità innata di ripartire immediatamente, io non ho nessun dubbio che saremo ancora protagonisti. Una campionessa della scherma per un campione del racconto sportivo, tutto made in Friuli, la medaglia d'argento conquistata ieri nel Gran Prix di Spada a Budapest da Giulia Rizzi porta con sé una dedica speciale. Quest'ottavo podio in Coppa del Mondo è arrivato in una delle tappe del circuito dell'ITGP e per il grande Bruno Pizzullo, conosciuto diversi anni fa a Milano. Abitavamo a poca distanza e ogni volta che ci incrociavamo scambiavamo qualche battuta in friulano. Una splendida persona, oltre che un professionista unico, che per il suo lavoro è entrato nel cuore di ogni italiano. La sua scomparsa ha suscitato in me grande tristezza e sono orgogliosa di dedicargli il mio secondo posto in Ungheria. Le parole della spadista del CT Dario Chiadò sul prestigioso risultato del Gran Prix di Budapest. Rizzi ha poi aggiunto: ho finalmente sbloccato il livello per cui un secondo posto mi brucia quanto un'eliminazione al primo assalto di giornata. Al via oggi a Lignano Sabbiadoro le convittia di 2025, i giochi olimpici nazionali degli istituti educativi statali, che fino al 23 marzo porteranno in regione oltre 2300 studenti provenienti da tutta Italia. Le convittia di hanno un carattere itinerante, sono giunte alla 17ª edizione e quest'anno dal convitto Galluppi di Catanzaro l'organizzazione è passata all'educandato Uccellis di Udine. Ci sono eventi che non parlano soltanto il linguaggio dello sport, ma piuttosto quello del rispetto, della socialità e della conoscenza di luoghi e tradizioni diverse. Le convittiadi ritornano dove sono nate 17 anni fa, in Friuli, al villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro. Oltre 2.000 studenti provenienti da tutta Italia saranno i protagonisti dei Giochi Olimpici Nazionali degli istituti educativi statali. 31 convitti si sfideranno in un clima di sana competizione, amicizia e rispetto dei compagni, come è stato sottolineato nel corso della cerimonia inaugurale dalla direttrice del convitto Uccellis, che organizza l'edizione di quest'anno. L'accensione della torcia olimpica e la lettura delle promesse dell'atleta hanno caratterizzato i momenti di spettacolo tra danza, musica e pattinaggio all'interno del Palasport di Lignano. Ospiti d'eccezione la campionessa paralimpica Giada Rossi e Stefano Pilastrini, il coach della Web Cividale, alla squadra di pallacanestro di Serie A2, reduce dalla finale di Coppa Italia persa con Cantù. Nel pomeriggio l'inizio delle competizioni che si concluderanno domenica. Lignano, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E con le convittiadi è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, per la parte tecnica in regia Roberto Cavallari e Bruno Montevecchi. Da parte di Eva Ciucca e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione, l'augurio di un buon pomeriggio e a risentire per il prossimo giornale radio alle 15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.